Rock FM. It's been a while since I could hold my head up high, and it's been a while since I first saw you. Soffro a sentire questa canzone, lo sapete? Soffro perché era una... Scusa un attimo che mi sono dimenticato un po' di parti, esatto. Dicevo, soffro a sentire questa canzone adesso perché è una delle prime... è una canzone che andava molto quando ho cominciato a fare le dirette a Rock FM. Allora, no, non volevo fare momento, vabbè, così. Allora, dunque, Tour de Force, partiamo parlando dei Metallica, che saranno il 22 luglio a Bologna, all'Arena Parco Nord, poi Negramaro saranno il 31 di maggio a Milano, allo Stadio San Siro, insieme a Fratellis, Hoosier, Fashion e Fink. Negramaro, naturalmente, super headliner, incontrastati. Parliamo anche degli XYZ tributo ai Rush, che saranno il 24 di maggio al Fronte del Porto a Genova, Big John Bates and the Voodoo Dolls il 15 di maggio a Legge in 54 di Milano. Vediamo altre segnalazioni come quelle degli After Hours, che saranno il 23 di maggio a Milano al Palasharp. Passiamo a Glenn Hughes, 26 di maggio a Bologna al Teatro Fanin, il 27 invece a Milano al Music Drome. I Deep Purple saranno il 12 di luglio a Pistoia, il 13 a Torino, il 15 e il 16 a Milano al Teatro Smeraldo, il 18 a Verona al Castello di Villafranca. I Killing Joke saranno il 19 settembre, anche il 20 a Milano al Rolling Stone. Vi ricordo anche i miei Rock Pit, con i quali saremo il 6 di giugno alla festa della birra di Santo Stefano a Macerata, comune di Cascina, in provincia di Pisa, con appunto i Rock Pit, e prima, a partire dalle ore 20, la Edocena. Quindi, se volete, ci incontriamo lì, che poi più che un'Edocena è una Rock Family cena, alla fine, che se ce la fate, insomma, ci vediamo lì, ci facciamo una bella cena tutti assieme, ci facciamo quattro chiacchiere. Rock in Field Festival, 26 di luglio all'Idroscalo di Milano, con Epica, Halloween, Threshold, Vision Divine, Avantasia, Biomechanical e Radiohead, date ormai esaurite, 17-18 giugno a Milano all'Arena Civica. Il Tour de Force torna torna domani alle 10.30 insieme a Marco Gravelli. Rock FM. because in 96 hours I got a gun in his brain. It's driving me insane. And I don't like the ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare, cause I'm a reborn maggot using Jim Warfare. Questo è Human Fly. Siete su Rock FM. Allora, vengo a rispondere a un po' di messaggi arrivati al 335 100 77 77. Ne sono arrivati veramente molti in realtà oggi, tra l'altro tra il sito e tutto, insomma, sta diventando veramente un po' ingestibile la situazione, come al solito. Però vabbè, un saluto a Luciano, un saluto ad Alibi 17, un saluto a Scarlett Woman, un saluto a Max Mard, che giustamente dice: cacchio, Edo e Max eravate proprio emozionati. Eh beh sì, un pochino si succede, sai com'è? Quando Brian May ti risponde, insomma, un po' ci rimani male, cioè ci rimani molto bene, anzi ci rimani così tanto bene che rimani senza parole. Poi un saluto anche a Rominula, che ci sente da Gibilterra, grazie, un abbraccio anche a te. Un saluto al grande Hank, che dice: ma scusa, ma l'indirizzo email non funziona perché vi siete venduti lo spazio mail nella speranza di racimolare soldi per un buon parrocchiere per l'Ariele? No, insomma, per l'Ariele ci penseremo prossimamente. Poi un saluto anche ad Emerich, un saluto a Mike, un saluto a Bonnie, un saluto alla mitica Franci, un saluto anche a Genuardo, che invece mi dice: mi piace la tua Les Paul, dato che non ti ho mai sentito, con quante dita la suoni? 3 come gli X-Men degli anni 70? Pale da forno. 4 come dei buoni X-Men anni 80? Default. 4 più 1 da Van Allen in poi, o più di 4 più 1 come mostri? Caro Genuardo, ti informo che io sono un palettaro schifoso, io sono un X-Men degli anni 70, diciamo sono un 3 più 1, visto che ogni tanto sto iniziando a utilizzare anche il mignolo, cosa che mi riesce difficile, però sto quasi arrivando al quarto dito, ecco, mettiamola così. Poi un saluto anche a Pandora, un saluto a Rost Boss, eccetera eccetera, tutti voi che avete scritto, oppure sul sito rockfamily.it, oppure vado a salutare gli sms. Allora aspetta che dunque un saluto a Super Topo Volante, che dice: ma oggi non si parla delle pupe della Claudia? No, non c'è la Claudia oggi, quindi non parliamo delle sue pupe, però se volete lo possiamo fare in qualsiasi altro momento, non è un problema. Poi un saluto al Fanello, che mi dà dello spammatore perché ho aperto un topic su Rock Family. Lui dà dello spammatore a me, vabbè, lasciamo perdere, un saluto, un abbraccio anche a lui. Poi un saluto anche a Nan, che dice: Crip, la dedichiamo a chi chiude la radio. Poi un saluto a Deca, che dice invece: grazie Edo per i Crip, li adoro, oggi la giornata non è delle migliori, sono un po' giù ma con questo brano mi sono tirata un po' su cantando la squarciagola. Bene, mi fa piacere Eka. Poi Giulia Rocker, che mi segnalava appunto della risposta di Brian May. Poi tutto calmo quando non c'è Claudia, niente bromura oggi. Beh, sai com'è, un saluto a Minty. No, ma guarda che io in realtà ho sempre bisogno di bromuro, e che quando Claudia vengono fuori un po' di più gli ormoni, come spesso accade. Un saluto a Dr. M, scusate, un saluto anche a Gianni da Firenze, un saluto a Bea, un saluto a Lore da Firenze, un saluto a Vale, che dice: c'ero anch'io venerdì e ho le lacrime agli occhi. A chi lo dice? Viva la famiglia, certo, sempre viva la famiglia, viva la rockfamily.it. Poi un saluto a Fabione da Sesto San Giovanni, un saluto a Filippo da Viareggio, veramente tantissimi, Ivan da Genova, oppure aspetta Laura da Milano, grazie, belle cose che ci scrivete. E insomma, un saluto a Fefo. Fefo scrive, continua a scrivere, no? Un abbraccio, un saluto a, anche a Fefo e a tutta la Fanelfo SNC. Poi vediamo altri messaggi. Un saluto anche a Manuel che dice: carissimo Edo, accendo ora la radio e sento Bohemian Rhapsody e Even Flow. Dimmi quando potrà ricapitare dopo il 30 di maggio. Comunque, sempre nei nostri cuori, caro Manuel. Grazie. Un saluto anche a Lanco. Un saluto anche a Tex da Prato e Simone da Russi e Lorenzo da Milano, mamma mia, oggi veramente tantissimo. Un saluto anche a Glemi e che altro, insomma, anche a God62, grazie davvero a tutti. Ho cercato almeno di in qualche modo leggere tutti i vostri nomi per ringraziarvi di tutti i messaggi che scrivete. Ora sta un po' finendo il tempo a nostra disposizione, ci abbiamo dato abbastanza scuri, chiudiamo scuri con il nuovo dei Bauhaus e poi saluti. Too much 21st century. Finale scuro, hai visto che c'era chi scriveva che non sentiva più parlare della mia anima scura. Direi che con Sister of Mercy, Bowes e Cramps, insomma, abbiamo rimesso abbastanza in pari la situazione. Io vi ringrazio, vi saluto, chiudo qualche secondo prima, visto che nelle scorse puntate ho rubato minuti preziosi al maestro Giulio Cappardone con le sue atmosfere eclettica. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani a partire dalle 17 sempre su Rock FM, oppure sulla rete, naturalmente su rockfamily.it, o se no sul mio blog edorossi.blogspot.com. Edo Rossi è tutto, buona serata.